Rassegna Stampa Europa. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa europea. Naturalmente l'Ucraina in primo piano, se volessimo dare un titolo è della lettura, insomma, di come molti giornali europei rappresentano la situazione, è un'Ucraina verso la rovina, con una specificità che viene data soprattutto dai quotidiani, ovviamente, del nord, dell'est, dell'Europa. I paesi baltici infatti riflettono sullo scampato pericolo. Gli effetti della crisi ucraina effettivamente si ritrovano in molte testate del nord dei paesi baltici. Il quotidiano lettone Diena riflette in particolare in un articolo che ricorda i 10 anni dall'ingresso di Riga nell'Unione Europea su cosa sarebbe accaduto se 10 anni fa i lettoni avessero detto no all'Unione. Nell'ipotesi più rassicurante, scrive la testata, saremmo nelle condizioni attuali della Georgia, un paese che nel 2008 ha subito l'attacco delle truppe russe, proprio mentre ipotizzava l'ingresso nella NATO e, prosegue Diena, nella peggiore delle ipotesi ci troveremmo nelle condizioni drammatiche dell'Ucraina. Per il belga De Morgan, quindi belga di lingua fiamminga, la reazione europea e dell'Occidente all'azione militare, al peso, all'azione diciamo informativa e al ruolo che sta svolgendo in tutta la vicenda la Russia è troppo lenta, quindi una reazione troppo lenta per cambiare realmente le cose sul terreno. L'Ucraina, scrive De Morgan, viene trascinata nella rovina, una rovina che è sociale, politica e morale, e le sanzioni potranno avere effetto solo nel lungo termine, quando ormai sarà troppo tardi. Insomma, massicce dose di pessimismo, peraltro condivise su un altro fronte anche dalla testata greca Katimerini, secondo la quale l'Unione vive il suo medioevo, una lunga fase di declino che induce, ed è proprio il cuore dell'articolo del quotidiano greco, che induce molti greci a pensare che forse sarebbe meglio tornare al vecchio sistema e al vecchio schema delle nazioni europee. Quasi un corollario il dato che vi è stato raccontato questa settimana anche dal Sole 24 Ore, che emerge dal sondaggio di Open Europe, che indica in una cifra prossima al 30% il blocco euroscettico alle elezioni di fine mese. Allora torniamo con alcuni dettagli in più su queste vicende. Dicevamo, e lo diciamo ormai da parecchie settimane, i paesi baltici ovviamente vivono con una sensibilità molto particolare le vicende dell'Ucraina, così come i polacchi, insomma tutte le nazioni dell'Unione Europea che facevano parte del cosiddetto blocco sovietico. In particolare Diena sviluppa questo concetto mentre riflette sui 10 anni dell'ingresso nell'Unione Europea e dice: saremmo la Georgia senza boriomi e vino. Boriomi è un'acqua minerale, una sorgente che è stata famosa in tutta l'Unione Sovietica. Il vino georgiano naturalmente ha tutta una tradizione molto forte, soprattutto appunto nell'ex blocco sovietico. Dice i diplomatici lettoni dunque riflettono attraverso molto le interviste raccolte da Diena su come 10 anni fa sia stata fatta la scelta vincente. Se non fosse accaduto, la situazione sarebbe davvero pesante, ed è questa una delle ragioni perché probabilmente nei paesi dell'est, del nord-est dell'Europa, la posizione euroscettica, pure storicamente presente, assume delle caratteristiche totalmente diverse rispetto a quanto accade in altri paesi. Paesi come per esempio la Germania, l'euroscetticismo tedesco, non siamo molto abituati a questo aspetto, viene raccontato ampiamente questa settimana da El Mundo, quindi il quotidiano spagnolo parla di AfD, l'alternativa per la Germania, quindi il partito tedesco euroscettico, e di come questo gruppo politico abbia sostenuto e sostenga una Catalogna indipendente. In particolare il leader di questo raggruppamento politico, Hans Olaf Henkel, è intervenuto in questi giorni più volte a favore favore dell'idea appunto di una Catalogna indipendente, dice però attenzione, visto il percorso che si sta a suo avviso delineando, sarebbe bene che la Spagna uscisse dall'euro in modo da non ribaltare la barca, cioè di non creare un'instabilità poi all'interno del sistema euro. In realtà proprio in termini di sondaggio, i dati anche in Catalogna sembrerebbero raccontare una storia un po' diversa da quella descritta dall'AFD. Infatti un recentissimo sondaggio dice che meno della maggioranza, in particolare il 47%, cioè un numero che sembra molto impressionante, ma è comunque meno della maggioranza dei catalani, è favorevole a andarsene dalla Spagna. Ecco, si fa sempre un gran parlare della Catalogna e della Scozia come appunto le regioni europee con la più forte pulsione all'indipendenza. Questo sondaggio racconta una Catalogna, come dire, non così schierata, una situazione non così chiara. Tra l'altro ricordiamo che il governo regionale di Barcellona vorrebbe tenere un referendum il 9 di novembre, ha già indicato una data, ma ovviamente il governo spagnolo su questo fronte è decisamente contrario. Ancora altri temi che ci riportano dunque sulla stampa europea, dicevamo da El Mundo, dalla Lettonia. Chi festeggia a modo suo anche i 10 anni nell'Unione è l'Ungheria. Il quotidiano Irado, appunto il quotidiano ungherese, racconta di un convegno che si è tenuto a Budapest la scorsa settimana, in cui un paese così critico e criticato negli ultimi 3 anni per le posizioni in particolare della presidenza e del governo di Budapest celebri comunque gli aspetti positivi della partecipazione all'Unione Europea. Il tema era sostanzialmente il leitmotiv dello scetticismo ungherese: abbiamo bisogno di un'Europa decisamente migliore e non semplicemente di più Europa. In questo, se vogliamo, ritroviamo un po' ormai quello che sta diventando un po' lo slogan di tutti i moderati davvero attraverso l'Europa, anche uno slogan che in qualche modo cerca di compensare e contenere le posizioni più esplicitamente euroscettiche. A questo proposito, dal Sole 24 Ore, elezioni europee, partiti anti-UE al 30%. Ecco, qui si cita un'analisi pubblicata dal think tank inglese Open Europe, basata sulle proiezioni di Vote Watch Europe. I partiti anti-UE potrebbero ottenere circa il 31% dei voti e quindi 218 seggi su 751. Naturalmente nel voto del 23, 24, 25 maggio prossimo. Nel Parlamento corrente il blocco cosiddetto euroscettico raccoglie complessivamente 164 seggi, cioè il 21% del voto complessivo. Ecco, negli ultimi mesi i partiti euroscettici come il Fronte Nazionale in Francia, il Partito Olandese per la Libertà, il Partito del Popolo Danese, il Partito Finlandese, l'UKIP in Gran Bretagna hanno ottenuto buoni risultati nelle appunto votazioni locali. In Austria e in Svezia i partiti anti-UE potrebbero ottenere buoni risultati, ma anche i partiti di estrema destra in Grecia e in Ungheria dovrebbero ottenere alcuni eurodeputati. Secondo lo studio, il risultato potrebbe essere quello di un europarlamento favorevole alla conservazione dello status quo o a una maggiore integrazione europea, mentre i cosiddetti riformisti critici o anti-europeisti moderati, ossia gli eurodeputati conservatori olandesi, i tedeschi, i cristiano-sociali tedeschi, che credono nella necessità di un cambiamento strutturale dell'UE come unica strada per la sopravvivenza, calerebbero da 53 a 39 seggi, insomma l'equivalente di circa il 5% del voto complessivo. Ecco, tutto questo naturalmente a patto che l'affluenza rimanga più o meno sulla linea del 45%. Se l'affluenza rimarrà intorno al 43%, conclude l'articolo, potrebbe diventare difficile per il nuovo Parlamento europeo proseguire nel processo di integrazione, non rappresentando di fatto una parte consistente di elettori. Vi ricordo che dal 79, anno in cui fu introdotto il primo voto voto diretto alle ultime elezioni del 2009, l'affluenza al voto europeo è calata dal 62 al 43%, e questo ovviamente fa e farà una grande differenza. Una grande differenza. E con questo è tutto per la nostra rassegna stampa europea. L'appuntamento, come sempre, per la prossima settimana. Un saluto a tutti voi. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.